pamela pamitindo malibali pamela pamela pamela pamela pamela umetoke kuwa marufu utengelezaji nywele pamela pamitindo malibali pamela pamela Pamela, na salama zima wanakufamu Pamela. Ukitaka kuvaa vizuri mbone Pamela. Ukitaka kupaka kalpiti mbone Pamela. Ukitaka upendeze mbone Pamela. Ukiwa na hasira sana mbone Pamela. Ukikopana na mumewe mbone Pamela. Pamela Salon, anaishi wapi Pamela? Pamela Salon, we am seeing bala patulivu. Pamela Salon, Pamela hana maneno, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela, umetokea kuwa marufu. Utengeneza jingwele, Pamela. Kwa mitindo mbali mbali, Pamela, Pamela. Si pense como na Pamela hata kufanya upendeze hata kufundisha kujua kucheka Pamela oh, Pamela ukikashirika usipate tabu ukimona Pamela si rajita kuisha Pamela oh, Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela umetokea kuwa Pamela, mwamikito mbali mbali Pamela, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela.